La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua amici, la Rosa Purpurea puntuale come ogni sabato sera a portarvi tutto il cinema che c'è in radio, qui su Radio 24, una puntata che vive sulle ultimi minuti direi quasi di attesa veneziana per i Leoni della 72esima mostra del cinema, ma anche in sala con tante novità anche di grande impatto popolare e anche provenienti peraltro dalla Mostra del Cinema di Venezia. Avremo fra poco il collegamento anche con Marco Bellocchio, che è proprio nell'imminenza dell'assegnazione del Palmarès. Venezia è stata a volte ingenerosa con lui, chissà che questa volta non succeda qualcosa. Nel frattempo però in collegamento con noi dal Lido c'è Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Buon pomeriggio a tutti. Boris, allora, dicevamo minuti addirittura di vigilia, è il momento in cui arrivano i primi rumors, in cui si sa che questo attore è stato richiamato, che questo regista sta tornando indietro. Allora, io ti chiedo intanto una panoramica, ci siamo sentiti due volte settimana scorsa, prima nella puntata del sabato, poi domenica dall'Expo, e ci stavamo raccontando di un cinema italiano che proprio in Bellocchio sperava di trovare l'abbrivio per risalire dopo le prime due prove poco convincenti. Parliamo ovviamente del concorso. Cosa è successo in questa seconda settimana a partire da Bellocchio in poi? Ma Bellocchio sicuramente ha soddisfatto le attese con un film leggero, particolare, anche ironico, diverso da quello a cui siamo abituati nella cinematografia di Bellocchio. Un film, e quando parlo di un film leggero parlo sia di un film leggero produttivamente ma anche lieve nel suo portare avanti un racconto molto particolare tra falsi invalidi, vampiri, la solita battaglia contro la Chiesa virata quasi mullanianamente, insomma. E quindi parto dal presupposto che sia Bellocchio il favorito tra gli italiani, anche se la proposta tricolore quest'anno non mi sembra corazzata per poter arrivare ai premi più importanti. Mi aspetterei forse una Coppa Volpi al femminile a Juliette Binoche, se dovesse esserci il solito, come dire, atteggiamento politico per cui l'Italia non debba rimanere a mani vuote, anche se la mia personale Coppa Volpi è sicuramente Alicia Vikander in Danish Girl. Lei è la vera Danish Girl in quel film, lei che riesce davvero a raccontarti una donna a tutto tondo, una donna straordinaria. Qualche speranza potrebbe averla anche Gaudino, che divide con il suo film con un'ottima Valeria Golino. Anche lei potrebbe forse arrivare a giocarsi la Coppa Volpi, con un linguaggio molto particolare, molto sopra le righe, molto forte, molto potente, sicuramente non conciliatorio, insomma, anche delle derive kitsch che a molti hanno fatto storcere il naso, però potrebbe essere un buon outsider. C'è il solito film orientale che è arrivato proprio all'ultimo, che si è attestato, insomma, tra i possibili favoriti. Molti indicano Anomalisa, film d'animazione psicologico e d'animazione di Charlie Kaufman e Duke Johnson, che anche lui potrebbe arrivare al Leone d'Oro. La verità però è che ci sono due dati in questo Venezia che emergono. Uno è che, come ai tempi di Müller, questa volta probabilmente i film italiani in concorso migliori, i film italiani migliori della mostra non erano in concorso, e parlo della Prima Luce di Vincenzo Marra e ancora di più di Non essere cattivo di Claudio Caligari. Uno era La giornata degli autori e l'altro era Fuori concorso. E l'altro che dopo tanti anni forse non c'è il film del cuore, cioè non c'è il film su cui tutti puntano, su cui tutti sono convinti, magari poi rimanendo delusi, che si debba arrivare al primo premio. Ci sono tanti film discreti, molti non dico impresentabili ma piuttosto deludenti, e quindi insomma siamo un po' al campionato di calcio di Serie A di quest'anno, che rischia di vincere quella che perderà di meno e non quella che vincerà di più. Boris, alcuni rumors, diciamo, danno anche come piazzato bene 11 Minutes di Skolimowski. Tu l'hai visto? Sì, 11 Minutes di Skolimowski, non mi stupirebbe un premio alla regia. film dalla scrittura un po' audace, perché mette insieme una serie di coincidenze che devono produrci appunto in questi 11 minuti che vengono visti sotto vari aspetti, fino a proprio gli ultimi 11 minuti in cui la storia la rivedremo per intero, una serie di incredibili coincidenze, un po' il butterfly effect, come un gesto apparentemente insignificante, anzi tanti gesti apparentemente insignificanti possono unirsi in una legge di Murphy, direi cosmica. Skolimowski potrebbe ambire al premio alla regia, perché il film non è straordinario, ma la regia di Skolimowski è molto molto buona, ed effettivamente grandi prove di regia in concorso non ne abbiamo viste, e quindi hai ragione, non mi stupirebbe un premio a Skolimowski. Non credo il Leone d'Oro, penso più facilmente che possa essere premiato per la sua direzione. Senti, lanciando un ponte verso Marco Bellocchio, dicevi tu ha convinto ed è stato un film leggero, adesso fra poco ne parleremo proprio con Marco Bellocchio qui alla Rosa Purpurea. Possibilità di Leone? È difficile dirlo. Siamo d'accordo sul fatto che se lo meriterebbe, fosse solo alla carriera. Sono tanti, almeno in due occasioni, se non tre, avrebbe meritato il Leone d'Oro e gli è stato scippato all'ultimo. La giuria è molto particolare, è di altissimo profilo, molto eterogenea, e l'unico sospetto che ho è che il respiro non ampio del film di Bellocchio, che è un film provinciale nel senso nobile del termine, no? A un certo punto Erlitzka lo dice, Bobbio è il centro del mondo, potrebbe penalizzarlo, nel senso che quella delicatezza di racconto e quell'ironia anche, e autoironia che lui mette nel film potrebbe non essere compresa fino in fondo. Secondo me sarebbe beffardo come il suo film un Leone d'Oro, ma meritato, nel senso che finirebbe per andare a vincere con un'opera minore della sua cinematografia, quando per minore parliamo sempre dell'apparato produttivo e non della qualità, che secondo me è molto alta. Temo che la conformazione della giuria e la storia raccontata potrebbe per l'ennesima volta penalizzare Marco Bellocchio in questa corsa, anche se io mi auguro di no, perché ho molto amato il film. E allora Boris, tu resta con noi, ricordiamo che il film di Marco Bellocchio è nelle sale cinematografiche italiane e fra poco Marco Bellocchio sarà qui con noi. Viabilità. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qui alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma. Come promesso, stiamo per incontrare Marco Bellocchio proprio alla vigilia della conclusione della 72esima mostra del cinema di Venezia, e mentre Sangue del mio sangue, il suo nuovo film, è nelle sale cinematografiche italiane. Allora ascoltiamo questa clip e poi parliamo. Sono Federico Mai, padre Cacciapoti mi aspetta. L'unica speranza è che Benedetta confessi il patto con Satana. Ma? Benedetta non confessa. Federico Mai. Da 8 anni mio marito è scomparso. Alcuni dicono di averlo visto sempre di notte. Perciò lo chiamano il vampiro. Tu che frequenti il mondo dei vivi, dammi un polso della situazione. Io sono pazzo. Fermare il tempo è impossibile. Allora la brucerete? Cosa ti importa se la bruciamo? Avvicinati, Benedetta. E allora le note di una storica canzone dei Metallica riarrangiata in stile gregoriano nel film di Marco Bellocchio, un film bello, profondo, scuro ma lieve, che riesce a dare davvero tante sfaccettature allo spettatore. Marco Bellocchio in collegamento con noi, ben trovato alla Rosa Purpurea, Marco. Sì, buongiorno, salve, ciao. Ciao, ciao Marco. Allora, parliamo innanzitutto di questo film, che è un film che spiazza, perché lo hai fatto con una, come dire, con una leggerezza, anche con una voglia di stare nel piccolo, no? Di non dovere per forza fare il cinema, quello con la 2C maiuscole, ma lì nel tuo posto, a Bobbio, in quello che conosci, e con appunto tante punteggiature. E ti chiedo come hai costruito questo piccolo gioiello. Ma questo gioiello si è costruito un po' senza una grande progettazione tradizionale. Tutto è nato dalla scoperta di una prigione abbandonata, dentro la città di Bobbio. In questa ho ambientato un episodio del film e poi ne ho aggiunto un altro. Insomma, è stata una cosa ispirata ad una grande libertà e soprattutto senza quelle pesantissime responsabilità che tu hai ogni volta che tu progetti un film di alto costo che deve per forza dare dei risultati, perché se non li dà poi i produttori si arrabbiano. Qui c'è questa libertà che non è sempre possibile, ma qui si è realizzata, anche perché Sangue del mio sangue è un titolo non casuale. Sono stato insieme ai miei figli, a mia moglie, ai miei fratelli, a tanti amici nella città di Bobbio, che non è la mia città natale, ma però è come se la fosse, insomma. E questa familiarità costituisce l'essenza e il carattere del film, e forse la sua leggerezza, come dicevi tu, insomma, pur affrontando dei temi assai profondi. Assolutamente profondi, perché sì, vabbè, ovviamente c'è intanto nei due, ricordiamo che sono due piani temporali diversi che in qualche modo si fondono, da qualche parte c'è qualcosa che è passato nel tempo, diciamo. E poi ricordiamo anche che ci sono, come dire, ruoli femminili molto forti, decisivi ai fini della storia, e che c'è come sempre un ruolo del potere, che può essere quello della Chiesa, quello della politica, della mala politica, eccetera, che comunque pervade l'uomo, lo schiacciano un pochino, no? Col loro piede sul collo. Sì. Capisaldi anche un po' del tuo racconto cinematografico, nella tua carriera, voglio dire. Beh sì, il discorso sulle donne, ma questo è una mia convinzione personale, so, nel senso che le ho sempre sentite più forti, non so se degli uomini, ma di me sicuramente, più tenaci, più coerenti, più determinate. E qui c'è appunto questa Benedetta, vagamente ispirata alla Monaca di Monza, ma con un finale che è l'opposto della storia della monaca, che non vuole confessare, non vuole piegarsi, vuole affermare la propria libertà e alla fine diventa libera in modo sicuramente non realistico, però vince su tutta una serie di uomini di potere che crollano di fronte a lei. Insomma, certamente l'altro tema, io l'ho detto mille volte, insomma, a me il potere dà fastidio, in questo senso ho uno spirito anarchico però estremamente rispettoso della legalità. La qualcosa è una evidente contraddizione, però di fatto è così, insomma, non chi ha il potere, chi lo esercita violentemente mi dà fastidio, non mi piace, insomma. E anche in questo caso ci sono dei rappresentanti del potere che però, in questo senso, si può dire è un film a lieto fine, paradossalmente, perché appunto i cattivi soccombono, ecco. Ma sì, però lo dico per scherzo. Certo, assolutamente, magari con una risata vi seppellirà. Marco, hai fatto una scena, secondo me è un piccolo particolare, però dice molto di questo film. Sì. Una scena, chiamiamola di sesso, anche se poi è tutto, come dire, non esplicito, ma che io ho trovato di un'originalità e di una sensualità straordinaria, quella con Pier Giorgio e con Alba Rohrwacher, queste due sorelle molto, ragazzi, esatto, sì, molto simili. E ti chiedo, come hai lavorato a costruire un punto di vista su una scena del genere, insomma, che non cadesse nel già visto, perché tanto ormai si infila la scena di sesso fra un po' anche nei cartoni, insomma. Sì, sì, sì. Beh, sì, c'è un'inflazione. No, perché lì è la delicatezza di prima di queste, e la, diciamo, anche la sorpresa, insomma, che queste due giovani ma destinate ad essere vitelle in qualche modo sono attratte da questo soldato e su una sua richiesta chiedono pudicamente di fargli compagnia. Poi quello che avverrà dentro, sotto le lenzuola, appunto, è solo accennato, sarebbe stato veramente pornografico se noi se avessimo indugiato su azioni che peraltro poi il sesso è talmente inflazionato che va solo all'uso, diventando esplicito è inevitabilmente freddo, pornografico appunto. E questa delicatezza, questo abbracciarsi, questo consolarsi, questo stare insieme contro una certa solitudine, un destino di zittellaggio paesano, questa è la caratteristica di queste due scene, molto casse potremmo dire, però sorprendenti, però molto dense, molto sorprendenti. ricordo Roberto Erlizca, ricordo Tony Bertorelli, straordinari nei loro, perché poi hai messo dentro anche, Marco, questa cosa dei vampiri, che è una cosa pazzesca, che poi ti sembra che, io l'ho raccontato a mia figlia che insomma ha 19 anni ed è cresciuta con la saga di Twilight, ho detto papà, un film di vampiri, dico sì, guarda, in qualche punto sì, come anche questo elemento, questo ingrediente, come è entrato. Ma il vampirismo non tanto, appunto, è chiaro, anche lì abbiamo una sterminata casistica di vampiri di tutti i tipi, giovani, vecchi, neri, bianchi. No, lì è proprio un vampirismo, diciamo, istituzionale, un vampirismo, cioè del potere che protegge, gratifica, permette di sopravvivere, ma al tempo stesso succhia il sangue, nel senso di toglie ai giovani, agli uomini, ai cittadini la possibilità di cambiare, di svegliarsi, è una prigione che permette una confortevole sopravvivenza. È quello che dice il vicario al conte vampiro: lei ha permesso a questo paese 30 anni di benessere, ma adesso è cambiato. Perché è cambiato? Perché la società è cambiata, questo isolamento non è più possibile, e quindi questa vampirizzazione, seppure soft, non è più possibile. Forse ce ne sarà un'altra, forse è già in corso un'altra, forse peggiore ancora, però quella è finita. Basta. Il vampirismo della baronia, potremmo dire, no? Cioè, sembra queste riunioni notturne. Fra... Esatto. Marco, ti faccio un'ultima domanda, che ovviamente ti voglio fare, che non è cosa ti aspetti. Ormai siamo nella immediata vigilia dell'assegnazione dei leoni. Cosa vuoi che cambi della tua carriera ormai? Certo, hai detto tutto quello che dovevi dire al mondo. Però ti chiedo, ti interessa ancora, cioè, il giudizio di una giuria in un grande festival? Ma io ho detto una cosa molto semplice: io avrei voluto non andare in concorso, però mi sono reso conto che sarebbe stato prima di tutto un'arroganza, un arbitrio nei confronti di tutti i collaboratori che potrebbero ambire anche essi a dei premi, quindi io dire non andare vuol dire negare a loro questa possibilità. Secondo, anche se, come è possibile, non mi aspetto nulla, io non sono diventato piuttosto saggio e non batterò ciglio se non arriverà nulla, però comunque l'essere andato in concorso ha permesso al film una visibilità maggiore, e per questo io l'ho fatto. Se mi diranno guarda, io sono già lontano, però non tornare, sì, io sono un essere umano, potrà spiacermi, ma un dispiacere che passerà in poche ore. Con un buon bicchiere di vino dei Colli. Tra l'altro so che il film è uscito, nessuno si aspetta nulla, certo, non deve, però mi dicono che abbia un po' di gente lo vada a vedere. Abbia cominciato bene, questo te lo confermo, i primi dati dicono, insomma, poi adesso deve arrivare il weekend, per cui sicuramente noi lo consigliamo, è il nostro consiglio della settimana, è un film assolutamente da vedere, questo piccolo grande film di Marco grazie. Bellocchio. Grazie davvero Marco per averci dato il tuo tempo, e regalaci ancora qualche film magari. Speriamo. Ciao. Grazie ancora, ciao. Il mio unico sbaglio è stato quello di affidarmi al dottor Quantunque, medico dell'INPS, farabutto della nota organizzazione criminale capeggiata dal conte invisibile. Il conte Basta? Sì, lui. della Nobil Mafia. E allora, con Sangue del mio sangue, con Marco Bellocchio, La Rosa Purpurea, Lina alla regia, torniamo fra poco. Ci sono ancora tutti gli altri film da vedere al cinema, a partire dai Fantastici 4. La Rosa Purpurea. Eccoci qua ancora, La Rosa Purpurea, puntata che è attaccata all'assegnazione dei leoni. Sapete tutto, chiaramente, restando su Radio 24 anche dopo il nostro programma, con i collegamenti con il Lido di Venezia. Noi andiamo avanti invece con un film che è da Venezia, un altro film che da Venezia arriva nelle sale italiane, esattamente come Sangue del mio sangue di Bellocchio. Si tratta di Non essere cattivo, film postumo, ai noi, di Claudio Caligari, scomparso pochi mesi fa, film che però è stato molto apprezzato in Laguna. Sentiamo la clip. Come fa quando ti tutti attaccano? Ma che muovo di a me come fa? Ti ho detto falla. Falla finita, ti ho detto. Sei che mi ha cannato, pezzo di merda! Sei che te ne sei andato per i cazzi tuoi! A me ci pensi! E mo come lavoro io? Ma che cazzo vuoi lavorare? Si è fatto come una pigna, guarda. A ripetere. Non messo il cazzo di pasticche. Gli anni 90, impasticcati, ragazzi di vita, eccessi, notti in discoteca, macchine potenti, ostia. Boris Sollazzo, ritornato con noi per raccontarci Non essere cattivo di Claudio Caligari, sul quale mi pare di dire, dagli ingredienti che ho appena enunciato, spira una certa area pasoliniana, diciamo. Sì, tra Pasolini e Scorsese, sono fratelli di vita, Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Lasciatemi dire, Luca Marinelli l'abbiamo visto Trans, in L'ultimo terrestre di Gipi, l'abbiamo visto Monaco in memoria di me, di Saverio Costanzo, l'abbiamo visto nel penultimo film di Paolo Virzì, Marito amorevole. Ogni volta è riconoscibile e ogni volta è straordinario nell'interpretazione, è un attore veramente sottovalutato rispetto al suo valore, a mio parere, a livello degli Elio Germano, di Pier Francesco Favino, è davvero un attore di prima fascia. E l'altro è Alessandro Borghi, che avete sentito, e lui è la vera sorpresa di Non essere cattivo, un attore incredibile, pazzesco, che ha un'intensità emotiva e recitativa davvero sorprendente. Tra l'altro, la curiosità è che sta diventando l'attore feticcio di Ostia, questa periferia balneare romana, perché in Suburra sarà un giovane boss che avrà come base proprio Ostia, e si annuncia anche là bravissimo. E la grandezza di Caligari è tirar fuori da questi due attori una performance straordinaria e raccontare appunto questa periferia di metà degli anni 90, siamo a Ostia nel 1995, come dicevi tu, mettendo insieme Pasolini e Scorsese, cioè riunendo anche i suoi due film precedenti, Amore tossico e L'odore della notte, in un solo film. Lo fa anche dichiaratamente, la scena d'apertura è una citazione smaccata di Amore tossico, la famosa scena del gelato, e Cesare è il nome del protagonista dell'Odore della notte. Di fatto è chiaramente un film che sconta la sorte che sa a cui essere condannato il buon Caligari, ma è un film estremamente vitale, non è un film cupo, è un film che racconta la periferia come solo Caligari sapeva fare, e fa male pensare che non vedremo altri suoi film, perché era un autore, mi veniva naturale parlarne al presente, giovane, brillante, capace di guardare dove il resto del cinema italiano spesso non vuole nemmeno passare superficialmente. Il film è bellissimo, è il mio film del cuore di Venezia, io gli avrei dato 3 Leoni d'Oro se fosse stato in concorso, faccio ancora fatica a capire perché non gli sia stata data questa opportunità, francamente un autore mai protetto dal sistema ha ricevuto, secondo me, in questo caso un'ipocrita protezione nel non voler andare postumo a giocarsi le sue chance per la vittoria finale. Detto questo, nulla toglie alla qualità straordinaria del film, dove c'è un Caligari che, come nei suoi film precedenti, riesce ad essere estremamente crudo, crudele, lucidissimo nel raccontare che più della polvere bianca della cocaina può fare la polvere dei cantieri abusivi. Lo sfruttamento del lavoro è una droga peggiore, la dittatura del denaro è una droga peggiore degli stupefacenti che i due ragazzi come dire, consumano in grandissime quantità, e dall'altra però c'è una cura visiva e narrativa che in precedenza non avevamo visto. Fa un film estremamente solido Caligari, non c'è quel atteggiamento naif che c'era in Amore tossico e meno nell'Odore della notte, e c'è invece un regista maturo che riesce a fare un film a tutto tondo, che purtroppo fa il suo capolavoro proprio poco prima di morire, aveva fatto due stesure di montaggio, il buon Caligari, e poi diciamo il montaggio finale è stato affidato a tutta la troupe, sostanzialmente al montatore, a Massandrea che ha fatto il produttore e grazie al quale c'è stato questo film. Ricordiamo che proprio a Venezia un anno prima Valerio aveva fatto un video appello a Martino Scorsese, l'aveva chiamato così, perché li aiutasse a fare il film. In verità lui ci aveva già messo del suo per cominciarlo, e lo dobbiamo ringraziare perché non avremmo avuto questo capolavoro senza l'attore romano. E l'unica cosa che ci auguriamo è che quello che gli è stato tolto da Venezia gli venga restituito dal pubblico, perché veramente se lo merita, perché è un film straordinariamente d'autore ma anche di grande intrattenimento, e che merita di essere visto da più persone possibile. E sono 59 le sale cinematografiche che lo programmano, quindi, come dire, una bella distribuzione per un film di questa, diciamo, questa caratura, intendo come target ovviamente, e quindi possibilità per vederlo assolutamente in tutta Italia, il film di Claudio Caligari, Non essere cattivo. Boris, rimani con noi, noi adesso dobbiamo giocare perché è assolutamente un must della nostra trasmissione, come sempre con due tracce di un film misterioso che dovete provare a indovinare. Signora, voi non entrate? Il più sublime atto d'amore dovrebbe restare segreto. Segretissimo, amore mio. È uno scandalo! Oh. Avete sentito? Non entrate. Allora c'è un luogo in cui bisogna entrare in questo film. La Rosa Purpurea, @radio24.it per provare a indovinare di che film si tratta e provare a vincere la copia in Blu-ray che la prossima settimana sveleremo. Invece fra pochi minuti restate con noi perché vi facciamo sentire un'altra traccia. Dobbiamo correre un po' perché Venezia, come è giusto che sia, ha assorbito molto del nostro tempo, ma ci sono tanti film che arrivano in sala in questo fine settimana. Un film che è passato al Festival di Locarno nello scorso mese di agosto, è il nuovo film di Jonathan Demme, Il silenzio degli innocenti, ricordate? Beh, non c'entra nulla, ma insomma il regista è assolutamente sempre lui. Meryl Streep, protagonista di un'opera rock, potremmo dire, che si intitola Dove eravamo rimasti. Sono Ricky Rendazzo. Vorrei un momento per presentarvi la mia band, The Flash! Pronto? Ho provato a chiamarti. Cosa posso fare? Puoi essere presente per tua figlia. Signora, gli anelli. Merda. Oh, quella mi serve. Qual è il problema? Beh, mamma, io sono gay. È una fuga d'amore. Ho cercato di uccidermi. Vi porto qualcosa da bere? Per me è solo acqua. Anche per me è acqua. Con scotch. Martini come piovesse. Già. Titolo originale Ricky and the Flash, come dicevamo, di questo film. Io ho detto Demme e ho associato Silenzio degli Innocenti, chiaramente non volevo dimenticare Filadelfia, ma Boris, qui siamo da tutt'altra parte del tentativo, divertente anche secondo me per Meryl Streep, di ritornare su quel piano musicale che tanto le aveva dato in Mamma Mia, se ricordate, e che è una delle vene un po' nascoste di questa attrice che siamo abituati a vedere con le sue sfaccettature drammatiche, e che invece si esalta personalmente in queste vicende, diciamo, musicali di rock film. In fondo, se ricordiamo, in uno dei film suoi più belli, Il cacciatore, il finale è dedicato a lei che canta, insomma, il talento c'era, e poi si è sviluppato ovviamente, come dicevi tu, in un film molto più simile a questo, Mamma Mia. Nel caso di Jonathan Demme però c'è un aggancio alla sua carriera, che non è ovviamente Il silenzio degli innocenti, per fortuna, ma è Rachel sta per sposarsi, perché vuole raccontare la storia di una famiglia che si è smembrata, e in qualche modo però rimane sempre unita, rimane sempre insieme, a qualcosa che va oltre i vincoli di sangue, è un'intesa particolare che si costruisce sulle sue contraddizioni, è quasi il film complementare a questo. E il film appare leggero perché racconta questa Ricky Randazzo, una rocker country che lavora in una cover band che ha successo solo nei bar in cui si beve abbastanza, una rocker repubblicana, quindi omofoba, che sostiene le guerre sporche del suo paese perché ha perso un figlio in Vietnam, e quindi un personaggio a suo modo respingente. E diciamo che la cosa più incredibile è che davvero Meryl Streep dimostra di poter fare tutto, cioè la stessa attrice che fa la Thatcher nella maniera in cui l'ha fatta, qua diventa una rocker sensualissima nonostante l'età, straordinariamente vitale, incredibilmente brava nelle performance da palco. Davvero ha una continua trasformazione, nonostante l'anagrafe continua a stupirci ogni volta. E Demi riesce a portare avanti un film che ha la sua leggerezza, ma che ha anche una forte sensibilità, una forte profondità, tanti sottotesti che vanno immediati nei confronti dello spettatore, che non vengono messi lì posticci e che alla fine del film sentirai tutti addosso. Quindi apparentemente potrebbe sembrare un'opera minore, e invece è una grande opera anche sulla famiglia americana, anche sul sogno americano che viene costantemente tradito. Va detto che sono bravissimi anche tutti gli altri attori, una sottolineatura va data alla figlia di Meryl Streep, che forse è addirittura più brava della madre in questo film. Io il consiglio che vi posso dare è: cercate con lanternino la versione originale, perché lì potrete apprezzare le performance degli attori e anche le performance vocali di Meryl Streep. Una piccola curiosità con cui chiudo è che Meryl Streep ha fatto ritardare le riprese perché non era soddisfatta del training che aveva fatto come cantante, questo per farvi capire anche la professionalità straordinaria di un interprete che è la migliore del nostro tempo. Il livello di perfezionismo chiaramente che è notevole di un'attrice che è cresciuta, come dire, con una generazione che voleva il massimo da se stessa, delle proprie performance. Boris, rimani ancora con noi perché dopo la viabilità ci toccano in breve i Fantastici 4. Quindi Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, con ancora tanti film che escono nelle sale cinematografiche di questo weekend già ricco per l'imminente termine della Mostra del Cinema di Venezia. Noi dobbiamo ovviamente dirvi la nostra sui Fantastici 4, che è l'altro film da cui ci si aspetta molto a livello di botteghino, anche se il suo esordio è stato abbastanza tiepido, tutto sommato, nel senso che sta andando ovviamente molto bene, non bene da superare i Minions in testa alla classifica, che è probabilmente il risultato che ci si aspetta. Però il weekend in questo potrà essere più favorevole ai Fantastici 4, che sono un prodotto nuovo, rispetto ai Minions che sono fuori da parecchie settimane. Allora ascoltiamo questa clip e ne parliamo. A causa di un tragico incidente, i sopravvissuti mostrano tutti delle condizioni fisiche uniche. Le loro abilità avranno infinite applicazioni nel mondo reale. Per fini militari? Non hai idea di cosa hanno intenzione di farti. Ascoltami. Infatti è per questo che mi trovo qui. Rivoglio i miei amici come erano. È troppo tardi. Non si può. Non sai niente su ciò che verrà. Cosa verrà? La fine del vostro mondo è l'inizio del mio. I Fantastici 4 al cinema in questo reboot, cioè una sorta di rinizio, diciamo, della loro storia, come se fosse in qualche modo un altro primo film. Un primo film che non ha convinto tantissimo in America, anzi è partito anche lì tiepidamente nel primo weekend, e che ha incassato poi alla fine come incasso totale una cifra intorno ai 50 milioni di dollari, insomma trascurabile per un film di questa portata e anche di questi costi. Boris, c'è del marcio non in Danimarca in questo caso, ma fra i Fantastici 4, cioè è una serie di supereroi che, per quanto storica, per quanto per esempio io personalmente l'ho sempre avvicinata a quella dell'Uomo Ragno, almeno per ricordi di letture giovanili, non è riuscita al cinema mai a sfondare definitivamente. Mai, forse perché è diventata anacronistica appena è arrivata, probabilmente superata dagli X-Men sia nella capacità di raccontare i super problemi, sia nella capacità nel narrare le dinamiche di un gruppo eterogeneo con poteri speciali. Il punto è che il film non riesce mai a trovare un centro focale, si concentra per più di metà del film sulle dinamiche tra i protagonisti quando erano normali, e nonostante questo non si riesce a trovare una motivazione, per esempio, per il rapporto così stretto tra Reed e Ben Grimm, o appunto per quanto riguarda il carattere complesso e anche cubo a suo modo del capo dei Fantastici Quattro. Questo per far capire come il tempo non ha aiutato la profondità. Poi quando si arriva al punto centrale, cioè alla trasformazione, al rientro dalla missione fallita che provoca questi incredibili cambiamenti nei quattro, si va invece troppo veloce e addirittura li troviamo da sorta di watchmen corrotti dai loro poteri a sereni paladini della giustizia del sistema americano. E infine l'action arriva talmente tardi da non risollevare nemmeno la parte di intrattenimento. Insomma, è tutto sbagliato proprio nei ritmi e nello scansionamento dei tempi del film e anche dell'analisi che vorrebbe andare oltre il film di supereroi, e in più gli effetti visivi sono incredibilmente più scarsi della media dei film di supereroi. E allora, questo per quel che concerne gli ultimi film, le ultime novità in sala. Boris, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Allora, prima di risolvere il game della scorsa settimana, vi faccio ascoltare la seconda traccia misteriosa di oggi. La notte come piena, della sol del cielo. Che te la pongo, che te la pongo. Signora, che cos'è? Il cinema? Signora, che cos'è il cinema? Il cinema c'entra molto in questo film, io vi posso aiutare perché mi rendo conto che siamo un po' in un film che potrebbe essere di nicchia per un pubblico che ci ascolta oggi, però insomma è un grandissimo autore italiano, è stato Il canto del cigno di un grandissimo autore italiano e guarda caso è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia una ventina di anni fa. Ha molto a che fare con il cinema anche nel titolo. Se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea @radio24.it, scriveteci nome, cognome, indirizzo e titolo del film e settimana prossima risolviamo. È arrivato il momento di risolvere invece il game della scorsa settimana. 7 anni fa mi sono trasferito in Normandia e ho riaperto il panificio di mio padre. Finalmente qui ho trovato la pace e la tranquillità. E allora si trattava di Gemma Boveri, la Normandia, il pane, la tranquillità, qualche indizio che hanno portato i nostri ascoltatori Marco Salzano di Napoli e Alberto Benedetti di Verona a vincere la copia di questo Gemma Boveri in un video, in DVD, di cui ci facciamo raccontare tutto da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, ben ritrovato e un saluto ai radioascoltatori. Sì, esce in DVD il film di Anne Fontaine con Gemma Arterton e Fabrice Lucchini, in un DVD che ha poco di speciale, ma è un buon modo per recuperare, se non l'avete visto in sala, quello che, piaccia o non piaccia, è uno dei più fulgidi esempi di commedia popolare francese, una commedia che funziona benissimo al nostro botteghino, con attori divertiti, divertenti, una scrittura colta nei riferimenti, qui si aggiorna niente poco di meno che Flaubert, in grado di ricorrere a molte sfumature di comicità, da quella più lieve a quella più crassa, e anche in grado di emozionare con personaggi soprattutto femminili, penso ad esempio a un film di quest'anno come La famiglia Bélier. Lucchini, dopo Mogliere in bicicletta, si confermò un elemento necessario, cinico e umanissimo di questa commedia emblematica e molto godibile. Davvero un film molto molto interessante sotto tanti aspetti, come diceva giustamente Giulio. Vi ricordo che questo è stato il nostro game della scorsa settimana. Vi ricordo invece che ci sono film da vedere in televisione importanti anche nel corso della prossima settimana. Sfogliando i palinsesti, lunedì 14 settembre c'è Cosmopolis di Cronenberg. Sì, su Rai Movie alle 23:20 David Cronenberg, dopo The Dangerous Method, non sembra più interessato a rivoltare i corpi umani, eppure continua a raccontarci come la tecnologia cambia radicalmente l'uomo, la sua percezione del mondo e anche la sua etica. Qui adatta uno straordinario romanzo di Don DeLillo, uno che pare sempre sapere cosa l'Occidente sta diventando, e racconta la realtà allucinata di un uomo dell'alta finanza, un affetto tipo quasi una sfinge ovattato nella sua limousine, mentre fuori l'apocalisse pian piano avanza. È un'allegoria dell'uomo 2.0, un'allegoria estrema, un ritratto preciso di chi informazione su informazione, prestito su prestito, ha giocato con i dati astratti e creando una verissima crisi economica. E questo è allora Cosmopolis, da non perdere, su Rai Movie alle 23.20 di lunedì 14 settembre. Il giorno dopo, martedì 15, invece, Nikita Mikhalkov alle 21.15 su Rai 5 con un numero 12. Sì, 12 sono gli uomini che si devono esprimere come membri di una giuria popolare sulla sulla colpevolezza di un giovane ceceno presunto omicida del padre, un ufficiale russo. Nikita Mikhalkov, che tra le altre cose è figlio dello scrittore che scrisse i versi dell'inno nazionale russo, si ispira al classico La parola ai giurati di Sidney Lumet e lo aggiorna al proprio tempo, includendo la questione cecena, ovviamente. Come il film di Lumet diceva del sentimento americano, Mikhalkov sa far parlare la Russia dei suoi giorni grazie a personaggi esemplari di visione e comportamenti della propria nazione, tra pregiudizio sociale, paranoia e conformismo, con un cast straordinario, una forma accattivante e certi tocchi retorici. Un film processuale simile, l'abbiamo appena visto a Venezia, si chiama L'Hermine, e oltre a presentare un grande Fabrice Luchini, di cui dicevamo prima, sa raccontare anche questo la Francia dei suoi giorni. E allora intanto guardiamoci 12 di Mikhalkov il 15 settembre alle 21.15 su Rai 5. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine del nostro programma, non resta che il tempo di salutarvi, di darvi appuntamento a sabato prossimo alle 18 sulla Rosa Purpura, un'altra settimana densa di uscite a partire da Inside Out, il nuovo film Disney Pixar. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.